Domenico Donaddio, ballata seriale. Comunicazione iniziale. Si prega di leggere attentamente questa introduzione prima di iniziare a usare le ballate di Domenico Donaddio. Se avete domande o non siete sicuri di qualcosa, consultate il medico, il procuratore della Repubblica, l'arcivescovo o l'editor più vicino. Le ballate in questione sono delle poesie o, se preferite, delle composizioni poetiche assemblate a partire da frammenti verbali preesistenti. Il montaggio collage è arricchito dall'utilizzo di tecniche quali l'utilizzo del motore di ricerca Google per creare delle liste o delle connessioni tra i versi e la giusta posizione di proposizioni provenienti da libri, riviste, siti, forum, eccetera, o dal vivo linguaggio parlato. L'autore ha sviluppato tale metodo prima di conoscere tecniche e movimenti coevi d'oltreoceano quale Googleism e New Sentence. Questo libro è consigliato nel trattamento delle seguenti patologie: inconsapevolezza sociale semplice e aggravata, dipendenza dal porno via internet, produzione di poesia impressionista paesaggistica, schizofrenia, insonnia, cimurro, deficit dell'ormone della crescita, pertosse e sindrome di Asperger. Le poesie possono essere lette una alla volta o tutte insieme. Assumetele durante i pasti o con un bicchiere di latte e qualche droga ricreativa. Possibili effetti indesiderati: crescente disgusto per il neoliberismo finanziario, sbalzi d'umore, cataratta, consumo compulsivo di reality show americani, rifiuto dell'autorità, occasionale insensibilità ai tendini, odio per le istituzioni, gonorrea, disagio mentale. Ulteriori informazioni in rete all'indirizzo www.officinedipoesialin.wordpress.com. Ovvero le disavventure del vicequestore Palizzi. Il vicequestore Palizzi è il nostro eroe preferito. Il vicequestore va in giro per i fatti suoi. Segui le fantastiche avventure del vicequestore. Con il prossimo numero vi regalo 50 di filo per andare a... Il vicequestore, pur facendo parte delle forze dell'ordine, è convinto che viviamo in un'epoca di spiccata manipolazione fisica e mentale. Hai mai sognato di essere in un luogo sotterraneo? Gli interrogatori del vicequestore Palizzi di solito cominciavano così. Hai mai sognato di subire operazioni chirurgiche? Si precipitava come un sasso lanciato da una mano maldestra e imboccava il portone pistola in pugno. So quello che pensi. Ti stai chiedendo se ho sparato 6 colpi o solo 5 in mezzo a quella baraonda. Ho perso il conto io stesso. Si ravviava i capelli radi e sorrideva beffardo. È morto il tuo amico, è morto perché è un drogato, anche tu sei un drogato, lo sappiamo che siete tutti drogati. Diceva così nonostante il contapassi elettronico che ricordava per consolidato orientamento interpretativo a 26 anni, tutto è possibile. Volti nuovi di tutte le età, se vuoi lavorare devi farti succhiare il sangue. Sono arrivato al punto di non avere più fiducia di nessuno, di non sapere più di chi fidarmi. È abbastanza chiaro che non c'è niente che vada come dovrebbe. Entrava una ragazza, pareva colta da una specie di frenesia. Sono entrata qui dopo una lunga e inconsapevole parabola discendente, una vita in cui, non mi lamento, ormai autonoma, è una vita affettiva e sessuale sana. 3 mesi fa ho cominciato, per gioco, a visionare filmati porno, e non solo. Il vicequestore, pura presenza scenica, era chiaro, soffocava uno sbadiglio. Ho iniziato a chiudere l'ufficio a chiave e a masturbarmi. La mia gratificazione sessuale si è spostata nella sfera dell'esibizione. Non potevo fare altro che guardare in uno stato che è insieme di suprema tranquillità e di suprema agitazione. Hai mai avuto difficoltà nel deglutire? Il vicequestore, fuori con gli occhiali scuri, ripensava a quando era ragazzo nel 1946. Il presidente Truman firmava la legge sulla salute mentale della nazione. Vademecum per il cittadino. A cura dell'agenzia segue comunicazione istituzionale. Cosa fare in caso di incidente nucleare? Gli incidenti, per quanto improbabili, sono possibili. Il pericolo principale è l'esposizione a alti livelli di "è finito un incubo". Una famosa azienda svizzera produce slip da uomo in grado di bloccare le radiazioni provocate dai telefoni cellulari. I piani di emergenza vengono organizzati a diversi livelli. È possibile comunicare la fede nel web. State dentro finché le autorità non vi comunicano che il pericolo è cessato. Se rientrate in casa da fuori, fatevi la doccia e cambiate vestiti e scarpe. Metteteli chiusi in una busta di plastica fuori dalla casa. Partecipa al televoto. Chiudete porte e finestre. È finita l'era degli annunci. Prendete le provviste di emergenza. Se dovete andare fuori, copritevi bocca e naso. Segue messaggio subliminale. Wongiocapilie. Fine messaggio subliminale. Ci scusiamo per aver cercato di condizionarvi, ma il sovraffollamento, la mancanza di risorse, eccetera, qualcosa bisogna fare. 2. Il vicequestore Palizzi crede nella piazza come luogo di aggregazione. Secondo il vicequestore, tendiamo facilmente ad abbandonarci alle visioni. Le parole ci fanno agire senza reagire. Il vicequestore va a cercare indizi nella cappella elettrica. Detenzione illegale vuol dire tante cose. Hai mai avuto la sensazione di aver perso la cognizione del tempo anche solo per qualche secondo? Attenzione, questa composizione contiene elementi forti che potrebbero fungere da attivatori per i sopravvissuti della programmazione Monarch. Verso un mondo dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno. A letto, diceva la farfalla, chi non ha letto dorma sulla paglia. Considerando le caratteristiche vocali e lo stato di nervosismo in cui si trovava, il vicequestore non aveva tanto voglia di sentire la voce del sistemista. Il bravo sistemista non dorme mai. Come sempre, tenuta su un filo di corrente a alta tensione. Ho sognato decine di migliaia di robot, diceva, che si prostituivano, contrabbandavano droga, armi e giravano ogni tanto film snuff. Palizzi si avvicinava a uno straniero, gli chiedeva sottovoce. Il ragazzo rispondeva con una smorfia. Ecco cosa diceva. Il tempo se accelera, los sentidos se agitan, il miedo paralisa los sentidos, el vertigo los dispara, la acampada permanente en la puerta del sol es vertigo puro. Alla richiesta di spiegazioni la reazione era la seguente. Per una ragione qualsiasi si verifica un'improvvisa revisione al ribasso dei livelli di debito accettabili. Pensateci su. Il vicequestore si precipitava in strada, entrava affascinato nella cappella elettrica. La donna era stesa su una stuoia, c'erano fuochi, borchie e tubi al neon. L'occhio cadeva sulle unghie. Palizzi si perdeva in un altro mondo. Croci celtiche meticolosamente disegnate con coralli turchesi incastonati. Le immagini erano di per sé eloquenti, non avevano certo bisogno di essere arricchite o peggio manipolate. Las revueltas son reales cuando modifican el espacio-tiempo. Esempi di metodi di lavoro in ordine sparso. Abuso sessuale e tortura, confinamento in box, gabbie o sepoltura, provocando la sensazione di annegamento, girare su se stessi, luce accecante, la lettura della passività come condizione dell'essere libero, la privazione del sonno, allucinogeni per provocare confusione e amnesia, ingestione o iniezione di sostanze chimiche tossiche, danni o minacce ai familiari, uso dell'illusione e della realtà virtuale. Tutto questo è realmente accaduto. Attenzione, la promozione è scaduta con le ultime violenze pre-elettroniche. Affrettati, la nuova versione light ha le stesse caratteristiche tecniche della versione non light. ma con funzionalità limitate, la detenzione, seguendo un punto di vista piuttosto imparziale, l'efficienza entra direttamente nelle case, sempre in servizio, sempre soddisfatti. Il vicequestore Palizzi rievoca un po' in anticipo l'11 settembre in occasione del decennale. La maggioranza, nonostante le scosse, tende a mantenersi solida fino a prova contraria. In vena di ricordi, il vicequestore raccoglie indizi sulla famiglia Garibaldi. Gli avvocati cambiano spesso copione. La rivelazione si riassume in questo: bisogna rovesciare la logica del sistema di spiegazione. Il bisogno di solidarietà e sicurezza nel contesto europeo dopo l'11 settembre emerge un filo conduttore ampiamente condiviso: la propaganda è l'organo esecutivo del governo invisibile. Il commesso diceva però a Palizzi: l'iPhone ricorda in occasione del decennale l'11 settembre con la realtà aumentata. Utilizzando la fotocamera, la modalità realtà aumentata svela foto dell'11 settembre. L'esperienza era avvivata da immagini nitide e narrazioni audio. Il vicequestore gli rispondeva: si tratta di una pratica molto diffusa, creare le situazioni e simultaneamente le immagini nella mente di milioni di persone. Segue nuova domanda dal test di ammissione: quando incroci le mani, il pollice di quale mano prevale sull'altro? Il vicequestore era indeciso e sorpreso. Aveva ricevuto tramite corriere un invito di trasferimento nella forza di gendarmeria europea. Ecco cosa diceva: per migliorare la capacità di gestione delle crisi in aree sensibili, individuare i reati, rintracciare i colpevoli, proteggere le persone e i beni, mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici, Palizzi si sforzava di immaginarsi nell'atto di impartire ordini. I danni a proprietà o persone non possono essere indennizzati in nessun caso. I gendarmi possono essere messi sotto inchiesta dalla giustizia dei paesi ospitanti. Questo verso è troppo lungo per la poesia. E anche l'aspetto più goliardico della vicenda, il vicequestore faceva una risatina, entrava in macchina zoppicando. In pratica la domanda è: vivi o ti basi sulle parole? In merito all'importanza storica della famiglia Garibaldi sono previste manifestazioni, spettacoli e cerimonie. Ricciotti Garibaldi, figlio di Giuseppe, nato a Montevideo da piccolo in Inghilterra tra il 6 e il 7 maggio del 1870, tentava di fondare la Repubblica Libertaria di Filadelfia di ispirazione bakuniniana. Vicino Vibo Valencia l'oblio era la legge sulla salute mentale della nazione. Nel mio dialetto non esiste la differenza tra insegnare e imparare. Imbarati, tu sbarare da me. Il verbo insegnare non esiste. Esiste solo il verbo imparare. Una visione orizzontale dell'apprendimento, senza nord e senza sud, senza gerarchie. Pensateci su. Janus Bravo. Dizionario della parabola. Airada Pallanca. Auschwitz. Non trono del trino né d'uno, non mano né nudo piede sul nudo del padre, come un salario per non dire, per non spezzare il pane, rigirando le dita nell'escremento di Atene. Che è Auschwitz prima di Auschwitz è Atene dopo di Atene. Una finale origine al gelo della più dolce pietà. Auschwitz, orrore per quanto è realtà, per quanto è retorica, per quanto è verità e bellezza, è Dio. Bellezza è la luce che si spegne tra un sorriso e una lacrima. Belial, Lucifer moritor come un Cristo di fuochi artificiali. Bagascia, che mi parla chiaro sul suo prezzo, a cui ubbidisco chidando la testa e la proteggo nel buio della mente. Io la proteggo dal suo prezzo, occhio con cui gioco a biglie, decrepito bambino dal lacrimoso cazzo, cazzo, interiettivo. Ah, oh, dove non posso più dire nulla, significante senza significato, e poi claustro della mia mano, carta della mia parola, cadavere della mia morte, cazzo offerto alla tortura perché sia la tua, purché sia la certezza del tuo sguardo. Quesivit cielo certum, la poesia che non mi importa un cazzo, una livida rosa, un negro diamante, diamante o rosa, vani come Dio, demenzia precox, come un diamante o una rosa o un Dio. Non c'è bellezza al Dio, c'è la vanità della colpa, che è Dio. Alle porte scee del non segno, il dado rimasto nel pugno. Il dado che non rotola e non fissa il numero del delitto, non accende la luce al castigo, al dardo, in lotta col perdono, l'uno all'altro eco, eco, Narciso a Colono, Edipo allo specchio, parole per niente e per nessuno, voce che ha pietà di chiudere gli occhi al suicida, esilio dall'immenso dovere dell'eros, esilio dall'infinito volere dell'eros, dimora nella non dimora dell'osceno, nel ebete piacere del porno, eco, rumore dal fondo della terra, rumore di fondo della terra, fondo, animale di fondo, disse Juan Ramón. La solitudine del corridore di fondo. Nel frattempo, io sono un frattempo. Sarà tra poco l'intervallo, il mio. Fottere fino all'estenuazione in un angolo fetido, mentre un rigagnolo di orina mi unisce a Filomela. Morto amore al lato mio giace simile alle feci in cui nasce, e la sua fica è un gioco di società. Gioco. Posseduto dall'abbandonata bellezza della lacrima, mentre la speranza lo è dalla volitiva volgarità del pianto. Se lo scherzo mette in salvo la nascita, il gioco la smentisce. Non ho generazione, sono la genetos, il non nato, il vile. In vita la non generazione è abbandonarsi al gioco, al sonno dello scherzo. A Hölderlin, Hölderlin, se nulla deve succedermi, Hölderlin, zwas never nacht, io ho il Neckar come una murena bianca, come un verso che sempre ha luogo e mai è, e il labbro azzurro di Hegel si inclina e beve azzurro, confessa, non è carne, hapax legomenon, lash ash ash, l'assassino assassinato, tu Giuda ucciderai la carne che mi ricopre, lacererai questo imene, imene, Judas è l'imene intatto sulla fica di Jesus, vergine dell'oscillazione, un vertice d'impiccato per amare l'orizzontalità della vergine. I do not find the hanged man. Io voglio lacerare l'imene della vergine. Io voglio amare il mio cazzo d'impiccato. Io voglio che mia madre bambina non si tolga dal mio cazzo. Infantile lacrima. Lacrima. Fiore inverso, non è rosa aulentissima, né rosa di plastica, è rosa artica, fiore che non esiste, lacrima senza pianto. Queste sono lacrime che furono perle, le perle più preziose sono le perle perdute, le luci di bellezza sul Dio, i morti come luci di bellezza sul Dio, di lentezza e di bellezza sul Dio, lacrime come orina sulle mani per riscaldarle. Mani. Copula del manicomio, mura dell'orina su cui grida l'infermiere, mura come mani, mi orinai sulle mani per scaldarle, le mura come mani, questa è la mano di Muzio, la mano in fiamme dell'alba, un'unica volta vacilli la mano, le mani dell'impiccato sulla corda, le onde del mare numerare, numerare. Pregare è numerare le onde sulla sabbia. Narciso è il conteggio degli occhi d'un cieco, un numero infinito d'occhi. Ulisse è un narciso che lancia la luce del suo nome sullo specchio oscurato dall'occhio ciclopico. Neckar o palude, farai un verde trignon negato agli uomini di buona volontà, l'ozio, che è Dio. Ozio, origine del vizio di Dio, origine come omega dell'alfa e ludo testimone dell'altro, l'occludo sul potere del ritmo che ozia duplicato sui corpi degli amanti. Oh, dell'orgasmo, otto perfetto, dell'infinito finito, anello di Möbius in cui è uguale il dritto al rovescio, otranto di occido e occido bianco cieco della pagina. Pagina. Vento bianco sulla pagina e la pagina sul vento, la pagina che non esiste sul vento, che non esiste, che è vento perché non esiste, pagina patria mia, a cui perché mia io sono estraneo. Persin la morte è a rischio sul nome della patria, la pagina che smerdo di parole come sperma eiaculato con paura, pagina prostituta, chi ti chiamò alla vita? La questio, questio, va posta con il diritto alla pietà della non risposta. Quos ego, io mi fermo a questo, all'interiezione prescindo dal sed motos prestat componere fluctus, mi fermo al sussurro, io sono la tigre del sussurro. Qua è l'atto che si toglie dall'azione, tu cuoque, quarzo, che amo sulla schiena della notte, io sono la furia di una rosa. Rosa, il vino e la feccia che ricolmano calici come rose implose a ventre, rosa di fica. Ira rose de dritnian, di rose de dritnian, vengono gli uccelli come rose, beccando nella mano il dolore che essi sono come violenza lenta delle rose al cadavere, vengono uccelli come sogni, nel mio salario vengono gli uccelli come rose, salario, sogno che ha derubato la mia notte, senza il salario della notte, l'alba ha un prezzo troppo alto. Pago un salario al mio viso sorridendo a una troia. Mi pago un salario scegliendo sbronza al posto di salvezza. Di salvezza meglio sbronza, perché ancor di più dell'umano mi ripugna la sua reliquia. Non ho altro salario che il sorriso. Non ho altro sorriso che la tau. Tau. La croce decapitata, sulla mano porto una cicatrice a forma di tau. Ma cos'è la cefalia di una croce? È il dio decapitato, ma lo è nel corpo, lo è nel segno. Tiger burning bright in the forest of the night, tigre, argot, carcerario, castigliano, percesso, il tradimento del sublime, tigre, tanfo sulle labbra cercando ubbidienza, ubbidienza delle labbra a crescere pane di sé. Lasciami ubbidire alla tua bellezza. Lasciami chinare il capo e proteggerti nel buio della mia mente. Io vado in cerca del padrone. Il padrone è l'ultima stazione dell'origine. È lo sguardo di Orfeo alle proprie spalle. Euridice è rimasta l'unico verso. Verso questo misurare facendo ritorno, questo Orfeo che ritorna all'inferno, ancora, ancora e sempre, questa Euridice che chiede il ritorno all'inferno, ancora, ancora e sempre, l'anversmesser dell'inferno, verità che è stadio superiore della falsità, la vera falsità, il vino degli assassini e degli amanti, il vomito di Peter Punk, lo zero a cui l'uno manca. Zero. Se lo zero è qualcosa che non raggiunge l'uno, è l'allegrezza di Cristo fatta due. Siamo due a spaccare un unico cervello. Amore senza nome. Siamo vicini allo zero. Ed il terrore incendia la sua aquila, ciò che non è occhio tra due sguardi senza gli occhi, un volo lento tra l'aridità e la madre, l'amante ebrea di Auschwitz.